è una guerra molto pericolosa, ancora una volta lanciata da Israele, che è l'aggressore, che ha colpito l'Iran. Sono tante le vittime in Iran, almeno oltre 400, anche gli israeliani sono stati colpiti dai raid iraniani, sono oltre 24 le vittime, ma Israele è andato molto in profondità in questi raid, colpendo la guida delle milizie al-Quds, Ismail Khani, il consigliere della Guardia Suprema, che poi è rimasto ferito, Ali Shamkhani, il capo dell'intelligence iraniana Mohammad Kazemi, 14 ingegneri impegnati nel programma nucleare iraniano. Sono state colpite caserme, basi militari, basi missilistiche, le centrali nucleari di Natanz, Isfahan, Fordo. Quindi è un attacco su larga scala, molto più ampio degli attacchi dell'aprile e dell'ottobre del 2024, che poi sono stati attacchi reciproci tra Israele e Iran. Ed è una guerra che coinvolge altri attori, perché sebbene gli Stati Uniti, Donald Trump e Donald Trump stesso abbiano dichiarato di non essere coinvolti fino a questo momento nel conflitto, ci sono prove che gli Stati Uniti sono stati coinvolti in questo conflitto. Per esempio, gli Stati Uniti hanno modificato i loro F-35 consegnati a Israele, che poi sono stati utilizzati per attaccare l'Iran, e questo è evidente perché non hanno avuto bisogno di rifornimento per poter fare attaccare il territorio iraniano. Quindi è evidente che in questa fase le autorità iraniane siano molto preoccupate, anzi hanno minacciato di colpire tutti gli altri paesi coinvolti in questa guerra, e quindi anche, se dovesse succedere, la Francia, la Germania e la Gran Bretagna. Quindi è una situazione molto pericolosa, che potrebbe portare ad un'estensione del conflitto. E poi l'altra cosa da dire è che questa guerra ha completamente accantonato la questione di trovare un accordo sul nucleare iraniano, perché prima che fossero avviati i raid israeliani era sul tavolo la possibilità di trovare un'intesa. Gli Stati Uniti di Trump avevano detto che era possibile arrivare ad un accordo sul nucleare iraniano, però questo accordo sarebbe andato completamente contro gli interessi iraniani, perché Trump chiedeva l'azzeramento completo dell'arricchimento dell'uranio, invece gli iraniani volevano almeno ottenere il mantenimento della soglia del 3,76% che è stata raggiunta, prevista dagli accordi di Vienna del 2015, dai quali Trump si è ritirato nel 2018, e quindi è evidente che non avrebbe mai accettato questo tipo di impostazione. Dall'altra parte, la domanda è se gli attacchi israeliani mirano veramente soltanto a chiudere la pagina del programma nucleare iraniano, oppure se puntano alla fine del regime di Ayatollah. È evidente che in questo caso l'obiettivo non sono soltanto i Pasdaran, le basi militari, ma potrebbe essere lo stesso Khamenei, cioè la guida suprema, il leader indiscusso della Repubblica Islamica. Evidentemente questo apre tante altre questioni. Da una parte è stata resa nota una sorta di veto che è venuto dagli Stati Uniti. Ricordiamo che Trump inizialmente non voleva essere coinvolto in questo conflitto, ora evidentemente sarà sempre più coinvolto, e secondo queste fonti Trump avrebbe chiesto a Netanyahu di risparmiare la guida suprema iraniana, di non arrivare a livello politico. Vedremo se questo succederà e quali saranno le conseguenze, cioè se questo veramente porterà alla fine del regime della Repubblica Islamica per come la conosciamo. E questo significherebbe anche che le persone dovrebbero scendere in piazza, cioè che chi ha sostenuto il movimento Donna Vita Libertà contro l'uccisione nel 2022 di Mahsa Amini da parte della polizia morale dovrebbe protestare, perché altrimenti un cambiamento di regime che viene soltanto da Israele non sarebbe una vera liberazione del popolo iraniano, e evidentemente gli stessi attivisti non vogliono che il regime iraniano cambi in questo modo, vorrebbero che ci sia un sollevamento popolare che è simile alle mobilitazioni e alle manifestazioni che ci sono state nel 2022 dopo le violenze contro l'obbligo delle JAD. Evidentemente tanti altri attori possono avere un ruolo in questa fase, cioè chi dice che potrebbe avere un ruolo negoziale Vladimir Putin, il presidente russo, ma anche i paesi europei, Francia, Germania e Gran Bretagna, che erano parte dei paesi che volevano raggiungere un'intesa nucleare, che l'hanno raggiunta nel 2015 ma che poi è stata cancellata. Tutto questo ci fa pensare che la strategia israeliana sia quella di attaccare l'Iran per oscurare il genocidio che è in corso a Gaza. Sappiamo che in questi giorni la pressione sulla striscia di Gaza è stata sempre più significativa, quella Global March to Gaza, che doveva arrivare nel Sinai fino al valico di Rafah, in precedenza con la Freedom Flotilla. Entrambe le iniziative sono state fortemente osteggiate da Israele. Israele con i 12 componenti dell'equipaggio della Freedom Flotilla, inclusa Greta Thunberg, che sono stati arrestati ed espulsi, con centinaia di attivisti che sono stati repressi o espulsi dalle autorità egiziane, che evidentemente non vogliono nessun tipo di manifestazione ai loro confini. Quindi è molto importante evitare che questo conflitto, questa guerra, oscuri le gravissime violenze, la crisi umanitaria, il genocidio che è in corso a Gaza, perché questo significa andare negli interessi israeliani. Israele, che vuole completamente azzerare tutta la rete di sostegno all'Iran, lo ha fatto con l'uccisione di Qassem Soleimani nel 2020, in quel caso voluto dagli Stati Uniti, che era la guida delle milizie al-Quds, l'ha fatto con i raid contro i leader di Hamas, Ismail Haniyeh e Yahya Sinwar lo scorso anno, l'ha fatto con l'uccisione di Hassan Nasrallah, il leader del movimento sciita libanese Hezbollah, sempre lo scorso anno. Ricordiamo poi la fine del regime di Bashar al-Assad nel dicembre scorso. Ora l'ultima figura che è rimasta del cosiddetto asse della resistenza è la guida suprema di Khamenei, e quindi potrebbe essere il prossimo della lista. Ovviamente quello che bisogna sempre sottolineare è che solo il cessate il fuoco a Gaza, solo la fine del conflitto israelo-palestinese può portare alla pace in Medio Oriente, tutto il resto rappresenta soltanto un'aggressività intollerabile da parte di Israele, che non vuole negoziare con i palestinesi, con gli altri paesi della regione, la sua presenza in Medio Oriente, ma vuole solo fare la guerra. Ha solo nella sua mente la logica della guerra.